Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Presenti 454, votanti 450, astenuti 4, maggioranza 266, favorevoli 277, votari 173. Onorevole Rampelli, per favore tolga i commessi, lo tolgano, grazie, la Camera approva. Comando omicida, comando qua, comando qua. Ma se c'è la partita. Vogliamo quindi ricordarveli questi articoli della nostra Costituzione, a voi odierni assassini della scuola pubblica. L'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione. Primario sì, primario dai. Primario fantasma. La buona scuola è la scuola dei più. Più risorse, 4 miliardi, leggetevi la legge di stabilità. Significa, per intenderci, che ci saranno i soldi per la carta igienica. Se ve lo dobbiamo spiegare in un altro modo, vi facciamo lo schemino. Ce l'ho nella panza. La protesta è sempre organizzata, il consenso è quasi sempre individuale e più silenzioso. Non ho visto dissensi, diciamo, non annunciati oggi. Se famono spaghi, Italia sud, Italia rot, la terra dei cacchi, una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze e l'Italia è questa qua. La riforma della scuola è legge e finisce così come sempre in Parlamento, eh? Accuse, contraccuse, proteste, fascisti. Pizza in compagnia, una pizza. Hanno rispolverato il fascismo in questi giorni alla Camera, con la russa che ha detto, la russa, non è fascismo il PD, io me ne intendo. Italia sì, uè! Italiano! Vabbè, gli insegnanti hanno lanciato i libri, qualcuno ha protestato, la Malpezzi dice non capite, vi facciamo lo schemino, la riforma della scuola c'è. Veramente riecheggiare in quest'aula ripetutamente la domanda, ma il Partito Democratico è un partito fascista? Beh, voglio tranquillizzare, state tranquilli, no, sono un esperto, non lo è. Sono un esperto, sono un esperto. La russa, la russa che ha proposto anche un dibattitone, bisognerà fare proprio un dibattito per capire se il fascismo ci sono state anche le luci oltre che le ombre. Io penso che prima o poi un dibattito prima storico sulle ombre, ma anche sulle luci del fascismo, che per esempio la chiamata diretta se la sarebbe potuta permettere, prima o poi quest'aula debba farla. Grazie. Oh, grazie, ve lo vedete. Io vi giuro, spero che lo facciano, perché quel giorno per la prima volta metto piedi in Parlamento e assisto a tutto il dibattito, tutto. Assisto, dico, allora vediamo, luci e ombre del fascismo, dibattito alla Camera dei Deputati, una cosa molto attuale. D'altronde non ci sono provvedimenti, leggi da prendere, da fare, da assumere. No, un bel dibattitone sulle luci e ombre del fascismo. Ah, sì. Le 6:34 minuti, Peter Bescapè è andato in vacanza. Vabbè, domani fa un turno il sabato, ma chi se ne frega, per noi è andato in vacanza. c'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Lorenzo Nespoli in redazione. Oggi è venerdì e venerdì si chiude la settimana. Apriamo il Parlamento per l'appunto per l'ultima volta. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Grazie. Ministro Boschi va a prendere un caffè, poi ci vedremo. Allora oggi intanto saluto Silvia Brasca del TG della 7. Silvietta, buongiorno e ben ritrovata. Silvia, fai presto. Allora, sì, ne è le 8. Non sono le 8, non sono le 8. Oggi però lo scoop lo fa il Fatto Quotidiano, ma ve lo dico subito tra un attimo. Intanto fatemi salutare Antonio Di Pietro, il contadino Di Pietro. Come sta Di Pietro? Avete visto che ci sono ancora, In che senso? No, beh, mica la davamo per morto. Non la davate per redivivo. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano e a quelli che si alzano alle 6:30 come avete fatto voi. Ecco, infatti, anche alle 5 noi sempre questo. Ma la conosce Silvia Brasca? L'ha mai incrociata? Tante volte. L'ha trattata male? Professionalmente fa il suo mestiere, quindi ogni tanto mi ha dato qualche bacchettata. Hai capito. Allora, lo scoop oggi lo fa il Fatto Quotidiano. Attenzione, pubblica l'intercettazione di Matteo Renzi con il generale della Guardia di Finanza Adinolfi. Non è il nostro amico Mariona Adinolfi che ha fatto la croce. Il generale della Guardia di Finanza Adinolfi. Era un'intercettazione che era finita nell'inchiesta di Woodcock. Però ora si sanno i dettagli. Di Pietro, vuole sapere cosa dice Renzi al telefono con Adinolfi? Dire la verità, io avevo avuto modo di conoscere non solo Adinolfi, ma lui, Cercello e tanti altri. Basta e m'avanza. La Guardia di Finanza è fatta innanzitutto di tante persone che fanno il lavoro tutti i giorni, e qualcuno che si mette le stellette per fregare. Comunque parlano poco prima del cambio di governo. Renzi chiama Adinolfi e parla così di Enrico Letta. Non è capace, non è cattivo, non è proprio capace. Beh, è proprio un incapace. E poi dice: lo mando al Quirinale, cioè lo mandiamo al Quirinale, lo togliamo da lì, lo mandiamo al Quirinale. Però il problema è che deve arrivare fino al 2016, non ha 50 anni, e quello là, Napolitano, non ci arriva al 2016, vuole mollare. Insomma, e poi parlano di Berlusconi. Berlusconi è d'accordo con me. Capito Di Pietro, c'era già il patto del Nazareno praticamente. Questo dimostra che Renzi appunto è stato un abile venditore, ma anche un buon truffatore politico. Come dire, si debbe in gergo, la tocca piano. Antonio Di Pietro, un truffatore politico. È uno che sa fare il suo mestiere, che è quello appunto di mettersi ma io l'ho detto abile venditore, perché poi, per l'amore di Dio, lasciamo stare tutta questa brava gente che si mette in mezzo alla strada a vendere i carciofi. Questo qui invece il problema di fondo è che vende democrazia, vende sogni, che ogni giorno racconta come è fatto ciò che non è fatto. Parlavate della scuola prima, e ho sentito dire anche quell'altro che dice: la buona scuola è comprare i rotoli della carpigiana. Ma mi faccia il piacere, direbbe qualcuno, abbi pazienza. No, ma tra poco c'è bisogno di politici il cubo, non la bocca, dico politico. No, ma gli serve pulire la bocca, è la bocca, perché quella che parla così mi confondo. Ah, va bene. Adesso arriviamo alla scuola. Ma cara Silvia Brasca, a un certo punto Renzi con Adinolfi generale, ecco, c'è questo momento in cui Adinolfi dice: a proposito, ti ho mandato una cravatta, colori rossi e neri. Risposta di Renzi: ma va bene, a me piace il calcio minore. Vedi, amico mio Renzi, qui andiamo su un campo minato, comincia a non piacermi questa conversazione telefonica. Il fiorentino da Juventino, Da Juventino sì, ma Silvia Brasca è un'interista proprio abbonata da anni che va lì, quindi capito come definisce il Milan Renzi il calcio non sono minore. Belle telefonate non sono belle telefonate. Non so da che parte prenderla. Quello che così mi sorprende di meno è il fatto che c'erano già insomma degli abboccamenti con Berlusconi. Antonio Di Pietro lo sa, la politica si fa così, non è che prima arrivi e poi provi a fare, insomma, cerchi prima di capire se ti prepari la strada, ti prepari la strada. E qua, fino a qua, niente di male, insomma, non pensiamo che sia fatta dalle anime belle. non capisco perché debba chiamare Di Nozzi comunque. Ma è un suo amico, era a Firenze. Ma io una cosa non la capisco, però qua al magistrato Di Pietro possiamo chiederlo. Ma è tutto legittimo che finisca su un giornale un'intercettazione del genere? Innanzitutto per questo riferimento alla prima parte. Insomma, è vero, prima di fare una rapina in genere ci si mettono d'accordo e cercano di conoscersi per vedere, si annusano i correi, ma per l'amore di Dio, questo è un discorso. L'altra questione è ancora una volta delle telefonate. Sul piano tecnico, ogni telefonata che finisce in un fascicolo processuale che viene depositata, viva il Signore, quella è ormai a disposizione delle parti ed è pubblica. Quindi piaccia o non piaccia, così è. Dopodiché, se non lo si vuole così, si cambia la legge sulla su come deve essere fatto per non rendere pubblica la telefonata. Però mi risulta che fosse stata segretata, infatti esce solo adesso sul Fatto Quotidiano. Ma esce adesso non perché è stata desegretata, esiste la segretazione e la desegretazione. Questi sono i due passaggi. Prima, altrimenti non uscivo solo adesso, sarebbe uscito anche prima, perché se permette, immagino che questo fosse uscito mentre Renzi, mentre Letta era ancora al governo, certo, e Renzi diceva queste cose, insomma, no? O mentre lo primo che lo facevano il segretario del partito. Ecco, il problema di fondo è, però è bello sto ritornello. Sì. Vuoi avere un posto di potere pubblico grande e grosso, ma non vuoi che si sappia che si faccia nella tua vita privata. Io nella mia privata mi sgozzo una bambina, ma nel pubblico non lo dovete fare. Vabbè, però queste sono telefonate, non lo so, tu Silvia che ne pensi, da cronista? Mi perdoni, stiamo parlando di persone che uno farà il Presidente del Consiglio e l'altra aspirava a fare il Comandante Generale della Guardia di Finanza. Io non voglio citare il caso Adinolfi perché, ripeto, il caso Adinolfi, come avete visto, non c'è allo Stato un problema penale. Sì. Ritorno al mio caso Cercello. Cercello era colui che comandava la Guardia, forse era ancora troppo giovane, dottoressa Brasca. È giovane. La ricordo bene, ma fammi fare un complimento. Mannaggia me. Cavolo, mi devo Ecco. Vabbè, che ricordo di questo caso Cercello? Era il comandante della Guardia di Finanza di cui ci servivamo a fare operazione Mani Pulite. Clicca su internet, vedi quanti anni ha preso per quel che ha combinato vendendosi nell'ambito dell'inchiesta Mani Pulite e vendendosi sempre a lui, per l'amor di Dio, perché i rapporti sempre così Dio lo faceva. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire queste persone è importante che si sappia cosa dicono, che si sappia questa è la posizione. Perché tu gli dai in mano a un comandante generale della Guardia di Finanza? Questo è il grande dibattito, Silvia, tu che sei cronista, cronista anche di giudiziaria. Ma ha ragione Di Pietro, insomma. Poi dopo ci sono delle telefonate più personali, il solito caso dell'SMS della Falchi, ecco, quelle cose lì non forse davvero non è il caso, però questa telefonata in un fascicolo è caduta la segretazione e viene pubblicata. Scopriamo atmosfera c'era nel PD. Sì, esatto. Ma Renzi che dice di Letta è un incapace, adesso non è che dovevamo aspettare un'intercettazione telefonica, questo per capire, però forse è più l'accordo con Berlusconi d'accordo con me. E queste cose qui. Vabbè, insomma, che meraviglia. In tutto questo hanno approvato allora la riforma della scuola. A Di Pietro non piace, questo l'abbiamo già capito. Però io non lo so, cioè c'è questo riflesso condizionato per cui appena c'è una riforma c'è qualcuno che contesta. Non sto difendendo la riforma perché non bisogna entrare nei dettagli, eccetera. Silvia, cosa c'è secondo te che va bene di questa riforma? Cosa no? Cosa è legittimo contestare? Non so, il metodo in cui è stata approvata, hanno votato in Parlamento. Guarda, allora io parto da premessa che è un mondo che conosco poco perché non ho figli e quindi conosco appunto professionalmente e quindi in modo anche molto distaccato, mentre sulla scuola, professori a parte, c'è molta, cioè le famiglie investono molto, quindi ad esempio la storia della carta igienica, io sono anni che sento la storia della carta igienica e non è un caso che l'abbia, che l'abbia, che l'abbia detto la, sì, appunto quella del PD, Tonino, no, questa, Di Pietro, scusami, non è una questione così, non è una battuta quella della carta igienica, è proprio, è l'epitome della situazione della scuola italiana, dei fondi della scuola italiana. Quella cosa dei contributi delle famiglie è lì, è vero che rischia che ci siano scuole ricche e scuole, sì, povere, sì. Quello è vero, quello è vero. E spero che ci sarà un correttivo sull'assunzione dei precari, mi sembra che il bonus da 500 euro insomma non sia da buttare via, e sulla formazione, no, su alcune cose, cioè voglio dire, stabilizzano delle persone, danno un po' di soldi, certo si accusa, cosa c'è che non va Di Pietro, che è stato in Parlamento, è il metodo, no, che non piace, guarda è l'abuso della parola riforma, che io non condivido. Allora, e chiamiamolo in un altro modo, ci sono delle emergenze, la scuola ha bisogno più denaro, quella non è una riforma, quella è fare i conti della serva, 2 più 2 deve fare 4, tanto esce se serve tanto, e comprarci anche la carta igienica. Nella scuola ci sono 100.000 precari che devono essere assunti, quello lo puoi fare con un decreto. Dopodiché stabilire invece tutto un altro modello di scuola, cioè cosa deve fare il preside, come devono essere diciamo così, spiegate le cose e con quali metodi ai ragazzi che vanno a scuola, eccetera, cioè una riforma del modello scuola, quello è quel che viene contestato in questo momento. Gli insegnanti che si sentono non più liberi di poter insegnare, e questo modello di manager che in realtà deve decidere lui chi è più bravo e chi è meno bravo all'interno dell'insegnamento, chi deve andare avanti e chi no, o chi deve avere un maggiore stipendio e chi no. Questo è una, questa parte della riforma viene contestata. Se è l'urgenza, tu non devi confondere e far credere ai cittadini che è una riforma perché do più soldi per ma no, vabbè, chiamiamolo in modo diverso, cioè modifiche. Doveva fare un decreto urgente, lo faceva subito per assumere le persone, per dare più soldi, dopodiché doveva aprire il dibattito per fare in modo che la cosa più importante che esiste in una democrazia, in un livello culturale elevato, cioè in un paese, avvenga in modo democratico e discusso, e non avvenga con decreti legge. Allora, noi dobbiamo... che però Renzi aprire il dibattito gli venga la scrofola. Aprire il dibattito. Lui apre i dibattiti, fa i dibattiti, aveva fatto mandate, le proposte, eccetera, che poi decido. È il metodo. Non ancora comprava la carta igienica. Ancora sta roba della carta igienica che serve a pulire la bocca, però non è male, Di Pietro. Allora, l'ha detto Di Pietro, che devo fare? Andiamo al traffico. Massima di Confucio: ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il nostro. 24 mattino. Questa è la situazione a Roma, ma non ci ascolta nessuno, Alessandro. Noi poveri cittadini disgraziati siamo abbandonati a noi stessi, nella spazzatura, nei trasporti, qualunque cosa. Non sappiamo più dove sbattere la testa. Oddio, che pena e pietà che questa città che si è ridotta. Ciao Alessandro, volevo soltanto chiedere una cosa, ma perché la legge 104 viene sempre presa di venerdì e di lunedì? Buongiorno Milan, invece di chiamare la Fornero per farti spiegare delle pensioni, come si fa a risolvere il problema, chiamami una volta in trasmissione, bene, e argomento io e risolviamo il problema delle pensioni e del debito pubblico. Milan, parlate tanto di Grecia, ma se scoppia la Cina... La Grecia in confronto è un petardo su Giove, non se la fila più nessuno. Milan, sei come un gattino attaccato ai maroni. Ciao. La Grecia è un gattino attaccato ai maroni. Diamogli da mangiare, diamogli un po' di benzina, capito? Evitiamo la catastrofe umanitaria. condoniamogli gran parte del debito, perché sia morta lì, capito? Vabbè, questa frase che Forchielli ci ha regalato, la Grecia è un gattino attaccato ai maroni, e questa adesso poi è diventata anche pretesto per tutti gli ascoltatori. Io cosa sono? Un gattino attaccato ai maroni. Va bene, va bene, va bene tutto. Siamo con Silvia Brasca del TG della 7 e con Antonio Di Pietro. Ci sono tante cose che vorrei, sulle quali vorrei chiedervi delle cose. Intanto, allora, la vicenda di Roma. Ah, oggi a Roma c'è uno sciopero dei trasporti di 4 ore. Ma io dico, ma... Silvia, venerdì scorso ero a Roma, sono andata a Roma o venerdì, due venerdì, c'era sciopero totale, oggi 4 ore. C'è lo sciopero bianco da giorni. C'è lo sciopero bianco. Non vogliono il badge. No, non vogliono il badge. Mi scrivono abbastanza arrabbiati dicendo smettete a dire non è solo questione del badge, ci sono questioni più profonde, mi scrivono i dipendenti dell'ATAC. Io ci voglio anche credere, non mi voglio neanche addentrare nelle questioni sindacali. Il dato di fatto è che è lo sciopero il venerdì. Vabbè, venerdì gnocchi si diceva una volta, venerdì sciopero in Italia. Però c'è questa vicenda di Roma, adesso c'è questa tragedia di questo bambino che è morto in metropolitana, 4 anni, è caduto nella tromba di un ascensore che è rimasto bloccato ed è morto. È andato il sindaco Marino, è andata così. Le contestazioni. Io vorrei chiedere ad Antonio Di Pietro, da politico, perché poi, cioè, Marino ha delle colpe, non lo so, che colpe, si è fatto un'idea di quello che adesso, cioè, ogni giorno porta anche la sua pena, anche una tragedia del genere, no? Beh, voglio dire, scaricare su una persona tutto ciò che accade è difficile, è chiaro che la responsabilità politica te la porta appresso, è ovvio che il dramma di chi cade di un ascensore sul piano tecnico e anche logico non è che lo puoi riportare al sindaco. Al sindaco va riportato e anche all'attuale sindaco va, a mio avviso, riportato una responsabilità politica per ciò che non funziona nei trasporti, che non dipende solo da lui. Io da quando sono tornato a fare il cittadino normale, tra virgolette, prendo i miei mezzi pubblici e obiettivamente, se ti metti dalle 8 della mattina alle 10 della mattina, le prime ore, dopo non riesci a entrare, ed è quindi perché? Perché possono arrivare quanti mezzi, quanti metro vuoi, non basta smistare tutta la popolazione che entra per andare dai lavori. Quindi c'è un sistema di trasporti a Roma che è di per sé insufficiente per la popolazione che si muove. Ma in più c'è in superficie a Marino ha trovato delle marinate che ha finito per bloccare il traffico ancora di più. Le marinate. Ma io non ho capito, ma a Roma lei si è dato un'idea che è come Milano Mani Pulite nel 92, c'è proprio tutto un intreccio di schifo. No, a Roma c'è Mani Pulite alla romana. Volemose bene. A Milano, quando abbiamo fatto il 92, la dottoressa Brasca se lo ricorda, a un certo punto, con dignità, tra virgolette, ognuno faceva il suo ruolo, l'imprenditore faceva l'imprenditore che pagava, il politico che riscuoteva. E invece è tutto a Roma era tutto bagno fra di loro, non si capisce più chi dà, chi riceve. Siamo arrivati al punto che hanno stravolto il senso del 416 bis, cioè l'associazione a delinquere, di tipo mafioso. Una volta era quello che ti imponeva di dare soldi, per questo era un mafioso. Se vai a vedere a 415 bis l'associazione a delinquere che hanno contestato adesso a Roma i magistrati, e addirittura i partecipanti all'associazione che pagavano le sì, non si capisce più niente non si capisce più niente, voglio dire, hanno rivoluzionato pure il modo è una associazione a delinquere alla romana. Però io ho un minuto, devo chiedere un'altra alla vaccina, un'altra cosa di Pietro, perché sennò questa mi sfugge. Ma ha finito di spillare soldi a Berlusconi lei? Spero di no perché ci sono altre cause. Mi ha distrutto voglio dire la vita con tutti gli attacchi e le accuse che ha fatto. Ma quanti soldi ha fatto il conto di quanti soldi gli ha preso per ora Berlusconi? Facciamo i conti di quanti danni mi ha prodotto. Vabbè, ho capito, in termini di onorabilità più o meno ha tenuto, non lo sa neanche lei. Scusi, la bisogna vedere se facciamo il conto ristretto e il conto allargato. Perché c'è il conto allargato? Sono sorpreso. Vabbè, il conto ristretto allargato. Le diffamazioni

Sì, pronto? De Lorenzo? Chi è? Sì, buongiorno, sono Alessandro Longoni da Radio 24, Il Sole 24 Ore. La ringrazio, ora sto per prendere l'aereo, non posso parlare. Ma... E poi durante la giornata, niente, telefonate vane. C'è l'ex segretario del partito del PSD Longo, che intervistato oggi al Messaggero dice: io sono figlio della guerra e so che a volte il politico viene anche fucilato. Beh, noi non siamo stati fucilati e dunque è già un passo avanti. Stia tranquillo Longo, si tratta solo di togliere vitalizia a qualcuno che ha una condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, cioè qualcuno che ha violato un patto con lo Stato. Forse è giusto o no che le più alte istituzioni dello Stato, Senato e Camera, non diano più soldi a una persona che ha violato questo patto. Comunque, 18 tra senatori onorevoli forse sono pochini, o no? Per il Movimento 5 Stelle sono degli sfigati che hanno preso così nel mucchio. Sentite Riccardo Fraccaro. Sono riusciti a beccare solamente 10 persone su 1543, perché non vogliono togliere i vitalizi, perché sanno che i prossimi saranno loro, altrimenti si sono autoassolti. Sembrano quasi 10 sfigati, sacrificati sull'altare della comunicazione, è una narrativa, dietro non c'è niente, i soldi degli italiani vanno sempre a finire alle persone che li hanno governati malamente in questi anni. 10 perché 10 sono alla Camera. Alla Camera voglio salutare l'onorevole Stefano D'Ambruoso, che è scelto civica questore, uno dei questori. Buongiorno, come sta D'Ambruoso? Buongiorno a lei, bene, grazie. Buongiorno, allora, a tutti dagli ascoltatori. La montagna ha partorito il topolino? Sono 10 sfigati alla Camera e 8 al Senato, ma oppure no? Guardi, io ho votato con convinzione a favore della eliminazione di chi avesse commesso i reati, e guai se non fosse stato così. Adesso quel tipo di legge, che è stato frutto di una negoziazione, di una mediazione evidentemente, ha per il momento individuato 10 persone, ce ne sono altre 346 perché sono ultra ottantenni e per i quali non sono arrivati i casellari giudiziari per dove era possibile riscontrare la possibilità di toglierli, che sono al vaglio dell'elettro. Perché raccontiamo questa cosa, c'è una legge che risale all'epoca fascista, per la quale se tu hai 80 anni il casellario giudiziale ti viene ripulito anche se hai delle condanne. Addirittura il presidente del Senato Grasso ha detto: se uno va a vedere il casellario giudiziale di Riina, di Totò Riina, superati gli 80 anni risulta ripulito per questa legge. Quindi voi non potete sapere se uno ha una condanna, se ha oltre 80 anni. Come primo accertamento no, però si può andare poi a fare una ricerca, cosa che abbiamo già disposto come ufficio di presidenza, come questori della Camera, per andare a fare una ricerca dettagliata, che comporterà più tempo evidentemente, sì, in ogni ufficio penale dove è possibile rinvenire appunto le sentenze che possono portare alla eliminazione del vitalizio. Quindi ce ne sono 346 che adesso sui quali vi dovrete concentrare un po' in maniera un po' approfondita. E i numeri in tutto, giusto per dare i numeri, sono 1548 gli ex parlamentari che hanno diritto ai vitalizi. Questi sono i numeri, giusto per dire. Sì, certo, 10 per il momento bloccati. Intanto le voglio presentare una cara amica, Veronica Gentili del Fatto Quotidiano. Buongiorno. Buongiorno. Sarà ancora un po' assonnata perché ieri ha fatto il compleanno. Stare, infatti abbiate pietà di me. Bisognerebbe toglierlo a me il vitalizio, proprio nel senso vita, qualunque cosa. Ma tu Veronica, da comunistona, sarai solo contenta che c'è dentro Berlusconi, a te va bene così, insomma. No, assolutamente no, vedi come mi fai sciocca. Sciocca. Penso veramente che è la montagna che ha partorito il topolino, invece, nel senso che su questo questa volta mi trovo abbastanza d'accordo con la linea grillina, come dire, cioè ci sono veramente, sono stati presi dei capri espiatori a mio avviso, anche con dei nomi che sono abbastanza altisonanti, per cui tutta la parte Senato, dai Cecchi Gori ai Dell'Utri, nomi che comunque fanno un certo effetto, però poi nei fatti per l'ennesima volta questa è una questione che resta lì sospesa, per cui a livello di propaganda le cose vengono sempre vendute molto bene, ma nei fatti cambia quasi nulla. Però qui abbiamo l'onorevole D'Ambruoso, che è una persona che su questo ci ha sempre detto in maniera sincera che lui farebbe di più, potesse dipendere da lei. Onorevole D'Ambruoso, diciamo la verità, lei questi vitalizi come li vede? Cioè, uno che è stato 3 giorni in Parlamento ha un vitalizio, lei come lo definisce? No, non la persona in sé ovviamente, ma no, questo infatti è una delle cose che insomma davvero abbiamo, io personalmente ho cercato in una maniera più più convinta di eliminare, perché immaginiamoci i casi storici che sono passati alla storia in una maniera anche ridicolizzante per tutti, come quello di Cicciolina, che è stata pochissimo e che ha continuato a prendere il vitalizio solo e soltanto perché è passata dalla Camera e poi ha continuato a fare una vita che anche dal punto di vista di quello che è il decoro delle istituzioni, insomma, perché Cicciolina, siccome faceva la pornostar, non le sta bene che prenda soldi dallo Stato. No, non è soltanto una questione. No, perché poi ha avuto delle conseguenze penali evidenti che sono state riconosciute da tutti, e qua faccio l'esempio, insomma, che è stato un po' più diffuso, ma c'è stato anche il caso di Toni Nenni, per esempio, quelli sono stati i casi su cui si è discusso di più al riguardo. E ciononostante la politica, sto riscontrando anch'io con uno smarrimento personale, porta delle negoziazioni per cui i voti sono, il mio è un voto, poi ci sono altri 19 voti che fanno parte di altri partiti, per cui alla fine la maggioranza fortunatamente nella democrazia vince ancora, e quindi si è arrivati a quel tipo di negoziazione che non difendo fino in fondo, però va detto che se non ci fosse stato questo scatto di reni da parte di questa nuova legislatura ci sarebbe stato neanche questo, diciamo. Neanche questo, diciamo, no, ma infatti io mi ricordo che lei era per una linea un po' più dura rispetto a quella di negoziazione. Hai sentito, Veronica parla anche di smarrimento personale, D'Ambrosio dice la politica, certo, la politica è anche questo, purtroppo bisogna venire a compromessi poi, no? Infatti sentivo anche ieri quello che diceva l'onorevole, e che in qualche modo chi si approccia al mondo politico ogni volta resta basito di quello che c'è intorno, e quindi nel tentativo di trovare una mediazione a volte bisogna davvero scendere a miti consigli, però in questo caso secondo me siamo proprio al parossismo, nel senso non c'è stato, a mio avviso non c'è stato uno scarto reale, cioè è stato utilizzato in maniera molto, molto strumentale per cercare di mostrare che qualche cosa è cambiato, ma i punti nodali secondo me non sono cambiati. Per esempio un punto fondamentale è questo, io ricordo anche il numero se volete per gli ascoltatori, è 800 24 00 24, le linee sono aperte se volete intervenire in diretta. Oggi c'è la linea, allora il Movimento 5 Stelle dice andrebbero cancellati tutti i vitalizi, tutti, proprio via. Forse una linea un po' esagerata. C'è poi una proposta di Matteo Richetti del Partito Democratico. La proposta suona così: ricalcoliamo tutti i vitalizi con il contributivo. Che è una cosa, Veronica, cioè, hanno fatto la riforma Fornero in un giorno, per tutti gli italiani è stato così, ma perché c'è anche da discutere che si debba ricalcolare col contributivo? Infatti, anche lì il candore di Richetti nel dire questa cosa, io non so come mai si sia lanciato, questi sono dei tentativi che secondo me... Sì, sembra quasi dire io lo faccio, tanto non passerà mai, però intanto però Richetti è uno che su questo è sempre stato abbastanza coerente da un punto di vista comportamentale, infatti ha fatto questo tentativo, ma diciamo che su questo la politica è come se venisse obnubilata, quindi pur di mantenersi attaccata ai propri privilegi è disposta a perdere qualunque tipo di credibilità e di dignità ulteriormente, peggio di quella che è la situazione, quindi il distacco con la realtà ormai è totale. Però io direi che una cosa del genere non è neanche da discutere, non so, onorevole D'Ambrosio, il fatto che possano essere ricalcolati tutti col contributivo come le pensioni di tutti gli italiani, allora vogliamo dire che il Parlamento è fatto di persone più uguali degli altri, oppure in 5 minuti vi mettete lì e dite almeno questo è sacrosanto, ricalcoliamoli come tutte le pensioni degli italiani? Esattamente questo, guardi, a me dispiace dover essere necessariamente d'accordo con lei ogni volta che ci sentiamo, perché questa è stata una proposta. Sono cose peggiori. È stata una proposta che è proprio scelta civica, che purtroppo vale quello che vale in termini numerici, ha fatto e che si è vista bocciare, non l'eliminazione tout court dei vitalizi che hanno anche una natura previdenziale, quindi sono in parte anche una pensione per chi ha versato quei contributi, ha fatto solo il politico di professione. E già questo è un aspetto che dovrebbe lasciare riflettere appunto sul livello della classe politica, ma soprattutto noi abbiamo detto, visto che appunto c'è stato il caso Fornero di quelli toccati dalla vicenda Fornero, anche per la classe politica il tutto con effetto retroattivo deve essere rivisitato col contributivo, invece il contributivo vale soltanto, quindi soltanto dalla legislatura precedente, 5 anni a questa parte vale, per i pregressi no. Poi c'è stata la mediazione dell'epoca, è solo che mediazione, però qui la legge ve la dovete fare voi, perché ve la suonate, ve la cantate, perché c'è l'autonomia di Camera e Senato, e quindi se non lo fate voi, che siete coloro che sono il proprio deputati in vero senso, deputati e senatori, di scrivere, fare le leggi e votare le leggi, qua Veronica, non so, se vuoi lo facciamo io e te, la scriviamo una legge per passare al contributivo, Veronica, però pensa come sarebbero contenti. Sì, no, vabbè, insomma, però se la devono scrivere e fare, se no non passa. Ma secondo me una delle cose per cui si riesce a tenere in piedi quest'ombra intorno a tutta la questione dei vitalizi è il fatto che c'è proprio un... non viene mai chiarito bene che cosa si intenda, cioè c'è l'aspetto dei vitalizi ai condannati che è un discorso, sì, ed è quello che in qualche modo è stato affrontato ieri, per cui... che è quello veramente all'ennesima potenza, cioè io devo continuare a pagare una pensione a vita a qualcuno che è stato condannato in via definitiva, cioè qui arriviamo proprio Ma tu li toglieresti tutti? No, questo è il discorso. Io penso, su questo il sistema contributivo sarebbe molto ragionevole, che coloro che hanno fatto il politico di mestiere in varie legislature per varie ragioni, adesso senza addentrarci addirittura sul fatto su quanto sia giusto rimanere in politica oltre un tot, perché quella è un'altra questione ancora, però chi della politica ha fatto un mestiere, magari l'ha fatto per oltre 20 anni, è evidente che deve avere una pensione esattamente come ce l'ha chiunque abbia fatto un altro mestiere. Detto questo, però, deve essere ponderato, valutato, e il sistema retributivo è ormai assolutamente anacronistico, per cui pensare di rimanere attaccati sull'ennesimo privilegio, cosiddetta casta, no? Sì. Il privilegio di casta della politica diventa poi grottesco. Io vogliamo concludere, poi dopo la pubblicità ascolteremo anche Pasquale Squitieri, che abbiamo raggiunto, lui invece, a lui è stato tolto il vitalizio. Onorevole D'Ambrosio, di questi 346 ci dica non tanto come andrà a finire, ma quali tempi ci saranno, cioè gli ultra ottantenni per gli ulteriori controlli, ci faccia capire entro quanto sapremo se ci saranno altri vitalizi da togliere. Allora, senz'altro ci vorrà circa 6 mesi per andare a fare questi accertamenti, però Milan, solo per essere precisi, il contributivo è legge già adesso, vale solo per il passato, cioè tutti i deputati che da 5 anni a questa parte sono entrati come lei per esempio, come me e come tanti altri anche del mio partito e non solo, non hanno il retributivo, cioè non vuol dire che basta un giorno per avere 1.000 euro, per quello che versano quello avranno come qualunque pensione, e non lo dico con la fermezza e con l'orgoglio di averci partecipato a questa legislazione, a questa legislatura, ma è davvero così, diciamo, è un fatto che almeno in termini appunto di informazione questo è giusto che si sappia, cioè per il futuro non è più come per le vacche grasse del passato, esatto, il problema che sono quei conti del passato che pesano, ecco, pesano, perché non è che puoi prendere le persone e buttarle nel cestino come assolutamente legittimo, e non va fatto. Allora io intanto la ringrazio, onorevole Stefano D'Ambrosio, questore della Camera. Tu Veronica stai con noi, parliamo anche d'altro poi dopo Squitiero. Io vorrò parlare poi dopo la pubblicità tra 3 minuti anche di Roma, ma sai che è successa questa cosa di questa tragedia del bambino, sentiremo Marino e come dire, tutto si lega in questo momento a Roma, no? Tutto si lega perché Marino va a parlare sul fatto di questa tragedia e lo aspettano persone a contestarlo, a dirgli vattene, basta, no? Come se fossero legate vicende così diverse, cioè la morte tragica di un bambino e quello che è il momento di questa Roma capitale che sembra veramente allo sfascio anche dal punto di vista della legittimazione politica. Ma parliamo anche di questo, tra poco Veronica Gentili sta con noi. Allora, eccoci qua alle 8:39 minuti, siamo con Veronica Gentile. Ma quanti anni hai compiuto ieri, Veronica? 23, 24? 23, dopo i 23 sono sempre 23. vabbè, 23. Questo vita natural durante 23. Veronica Gentili, la nostra 23enne a vita del Fatto Quotidiano. Dici che non si sa chi voto, non si sa se sono fidanzata. Sappiamo che ho 23 anni. Sappiamo che hai 23 anni, ci devi ancora dire se sei fidanzata. Sentiamo dai due ascoltatori sui vitalizi. Lorenzo da Milano, Lorenzo, che c'è? Buongiorno Milan. Buongiorno. La sua frase è... che la legge Fornero ha in un giorno ribaltato tutto, e la legge Fornero è stata chiaramente votata anche da tutti i partiti politici. Certo, come no? Mi fa non tutti, pensare... non proprio tutti, però la legge l'ha votata. Insomma, mi fa pensare che la Lega e l'Italia dei Valori non l'hanno votato. Vabbè, per correttezza, però, no, non ce ne cavano niente. Vabbè. Però eccola, mi fa pensare a una cosa: visto che il popolo è più saggio di questi politici, sì, la soluzione potrebbe essere quella di essere il popolo a gestire questa situazione. Decida il popolo. Certo, o questo darà adito a scenari brutti, e ciò non deve essere. Ma guardi, Lorenzo, non ne caviamo niente. Lei dice decida qua, il popolo. Non so, popolo. Io non sono d'accordo. Però certo, l'autonomia della Camera e del Senato forse esagerata. Lo so. Veronica Gentili, tu che dici? Tu che sei per il referendum della Grecia, decida il popolo. Non è che il popolo deve decidere. Questo sappiamo che a te tocca una tematica dolente, no? Tu sei anti-referendum sempre. Ma no, che anti-referendum? Ormai, ma no, no, quello in Grecia mi è sembrata una cosa un po' strampalata, però. Beh, ma del resto pensavi che fosse impossibile per la gente capire sul tema economico, quindi dici perché continuo a pensarlo, No. Quindi è uguale. No, io non lo so, io credo che su questo ci vorrebbe un po' di responsabilizzazione invece della politica da parte sua ogni tanto, e che fossero in grado di farlo in una maniera un po' meno ipocrita, e che non sia necessario supplire a questo, che è una delle cose che dovrebbero far loro dall'esterno. Ma anche perché bisognerebbe cambiare tutto, cioè c'è l'autonomia legislativa di Camera e Senato, cioè, quindi no, ma lo dicevo agli ascoltatori, l'autodichia come viene definita, cioè non è che possiamo improvvisare domani vota il popolo, prima bisogna cambiare la Costituzione, cambiare e poi può votare il popolo. È anche una delle ragioni per cui questo fantomatico referendum euro sì euro no, per tutti quelli che vorrebbero farlo, no? Tutti i partiti che ne stanno parlando, non è così semplice. Esatto, cioè, sentiamo Pier Michele da Milano, e poi ti devo far sentire Squitieri. Pier Michele, buongiorno. Buongiorno, no, volevo io dire una cosa controcorrente. Dica. Io trovo assolutamente una forma di linciaggio facile dei capri espiatori. Io non ho parenti parlamentari, questa cosa dei vitalizi. La linea telefonica, dalla ripristiniamo. Intanto sentiamo Pasquale Squitieri, 80 anni, anche un po' malandato, anche malato. L'ha raggiunto Alessandro Longoni. Sentite che dice del vitalizio che gli hanno tolto ieri. Quando io mi sono presentato, ho calcolato anche il vitalizio, è ovvio, no? Il problema è che improvvisamente viene tolto un privilegio, perché è un privilegio che mi era dato e in base al quale io mi ero presentato. È un'inadempienza contrattuale, no? Lei mi assume a Radio 24 dicendo: Squitieri, lei viene, lei prende tanto di stipendio fisso e tanto di, come si chiama, ecco, io vengo. Poi improvvisamente, quando ho finito il servizio, no, questo non c'è più. È all'italiana, Veronica, però stiamo parlando di condannati, non è che stiamo parlando di che ne pensi. Infatti il problema, quello che Squitieri dice, si pone sull'applicazione retroattiva invece del sistema contributivo, e in quel senso si può dire: si è stipulato un contratto in un modo, adesso che fai? Quindi la proposta di Richetti su quello secondo me si scontrerà. Sull'essere condannati io li trovo esilaranti, sì. Cioè nemmeno in questi casi, nemmeno davanti all'evidenza, tutte, no? Anche come il discorso della riabilitazione, sì, che è una delle cose su cui 5 Stelle chiaramente hanno dato di matto. Cioè, dici, dopo 10 anni, guardate, adesso è tutto ok, non è successo più niente, riabilitiamo e voglio il vitalizio. Cioè, no, no, ma infatti, è come Longo che dice: è già tanto che non ci hanno fucilato. Ma no, Longo, ma nessuno ti vuole fucilare, ma stai tranquillo, nessuno fucila, nessuno, fortunatamente. Siamo fuori tempo massimo, purtroppo, non abbiamo più ghigliottine, ci mancano un sacco di gadget. Tu la ghigliottina la utilizzeresti un po'. Beh, ha un suo fascino, insomma, dai, una sua poesia, vabbè, vogliamo negarlo? Senti, no, invece ti devo chiedere questa cosa. Tu vivi a Roma, sei di Roma e come tanti cittadini di Roma. No, ma è un'idea. Io, guarda, quello che è successo ieri mi fa male anche il cuore, ma dover parlare di questa tragedia. Non è che voglio parlare della tragedia del bambino morto, ma succede che è morto questo bambino, una tragedia, una disgrazia incredibile nella metropolitana. Il sindaco di Roma, Marino, va sul posto per parlare alla popolazione, ma in questo momento si sa che come dire, c'è qualcosa di più grande, no? che grava su Roma. E allora arriva Marino e succede questo. Ragazzi, ci facciamo male. Una tragedia terribile, un lutto non solo per Giovanni e Francesca, i due genitori con cui sono rimasto un paio d'ore, ma è una tragedia per tutta la città. Grazie signori, grazie. Capisci Veronica? E poi vattene, buffone. Vabbè, chiaro, rappresentano una parte, non è che rappresenta tutti i romani, però su queste cose secondo me dobbiamo essere bravi anche noi, cioè nel momento in cui uno fa informazione bisogna cercare di ribadire che in questo caso veramente prendersela con Marino non è che è ingiusto, è oltre. Cioè, ci sono, poi c'è la rabbia della gente, e la rabbia è sacrosanta. Quando succedono delle tragedie di una portata così enorme ed è anche molto, molto scioccanti, perché sono inaspettate, perché accadono in contesti che sono contesti metropolitani, anche appunto apparentemente legati alla gestione dei servizi, c'è subito la ricerca di un capo espiatorio. Si presenta lì Marino, ci si presenta in un momento in cui non si fa altro che parlare di lui e della sua inadeguatezza. È chiaro. La gente è arrabbiata e automaticamente è buffone, quindi questo diventa, sì, però la cosa che mi ha fatto, posso dire che mi ha fatto rabbia, cioè che le persone che erano lì per dire buffone a Marino, e io non contesto, uno vuol dire buffone al sindaco, non stiamo parlando di questo, ma c'era morto un bambino, cioè non è che puoi andare lì per dire buffone al sindaco. Però, ma perché, perché la cosa più importante in quel momento non era la presenza del sindaco, vai in consiglio comunale a contestarlo, vai in una manifestazione pubblica, ma no, dove è morto un bambino. No. Quando si formano i capannelli di persone all'esterno in questi contesti non c'è una reale empatia e partecipazione sensata, c'è semplicemente il dover creare il caso e poi le persone si aizzano l'un l'altra e si crea questa cosa, la rabbia fa molto più spettacolo, ma io vorrei stare lì nel silenzio, la gente non lo fa, è una cosa ridicola. Io vorrei sapere quante di quelle persone che erano lì per solidarietà nei confronti di questa tragedia, o invece per andare a prendere l'occasione. Ma quasi nessuno, ma come non lo è mai quando ci sono le situazioni in cui la gente si ferma per strada vedendo delle cose che apparentemente non li riguardano e cominciano ad inveire e a rendersi protagonisti della faccenda. Cioè, quella non è una situazione in cui formi, ti metti lì in mezzo alla strada e che solidarietà dai. Allora, stai con noi Veronica. Veronica Gentile con noi dopo il traffico e riprendiamo. Eccoci cari ascoltatori, siamo con Veronica Gentili e anche Isabella da Milano ci chiama. Isabella, buongiorno. No, è caduta la linea. Allora, Veronica, vabbè, a Roma è così, questa è la situazione. Però io ti vorrei chiedere una cosa sulla Grecia. Sai che sono giorni decisivi? Sì, come no. Secondo me tu sei. Io so già che a te piaceva un personaggio della Grecia, già lo so. Prima però. Dimmi. Dire che mi piaceva è riduttivo. Io lo sapevo. Io lo so che tu sei una che è conquistata da quel fare della camicia dentro e fuori di un Varoufakis, questa faccia un po' tra Bruce Willis, Checco Zalone, Franco Trentalance, no? questo fascino della mascella un po'. Ti piaceva Varoufakis? Quelli fuori dalle righe, le persone che sono capaci di imporre la loro volontà. Ma che imporre? È scappato in moto! È scappato in moto! Tu veramente hai il coraggio di parlare di Varoufakis? Pensa per un attimo se il ministro dell'economia greco fosse stato tu. Immagina che tipo di immagine istituzionalmente devastante collettivamente nel mondo sarebbe stata. Non saprei neanche da che parte iniziare a contare i conti della Grecia. Non voglio neanche entrare in questa tematica, ma già tu che arrivi, capito? Tu avresti fatto la versione Young di Padoan. No, ma che di Padoan? Ma perché mai scappato in moto? Se ne è scappato, va a fare i soldi in America, Varoufakis. adesso a fare le lezioni. Ah, adesso va a fare i soldi in America, faceva l'insegnante. Sì. Sono anni che insegna, che teorizza. Si è fatto la sua breve tranche politica, in cui, insomma, questo si può dire senza temere di mentire. Sì. Sicuramente resta alla storia, non è uno di quegli politici consacrati alla cronaca, che sono tutti con le chiappe cucite veramente, no? Che alle loro poltrone, che sono lì vita natural durante, per quello poi prendono i vitalizi, perché non fanno nulla e stanno lì seduti senza far niente. Lui si è fatto questi 6 mesi, ha fatto delle cose per cui sicuramente uno se lo ricorda, nel bene e nel male, chi l'ha detestato, il cialtrone, un pagliaccio, chi invece ti dice che è una persona che comunque è riuscita a sparigliare tutto e ha ribaltato il tavolo, dopodiché prende, se ne va, narcisista quanto volete, dopodiché un narcisista immoto, che anche immoto. Disposto, no, ma comunque intanto no, ma chi lo critica perché c'è la moto, è l'immagine, no, a volte i politici non rosicare, non lo criticare, è un'altra cosa. No, non rosico perché c'ha la moto. Potrei rosicare per tutte le donne che probabilmente ha col suo fascino. Ma non solo, ma per tutte le donne che sono totalmente intrigate, tutte le donne italiane vedo quando scrivo cose su di lui che sono tutte intrigate. Tu scrivi su di lui, intanto ti faccio ascoltare quello che il nostro mito Alberto Forchielli, ricordo presidente dell'Osservatorio Asia, grande imprenditore e fondatore del Mandarin Partners, uno che vive tra Boston, Monaco di Baviera, Hong Kong, Shanghai, Macao, Imola, ha definito da noi la Grecia 3 giorni fa. Non ne usciamo più, la Grecia è un gattino attaccato ai maroni, diamogli da mangiare, diamogli un po' di benzina, capito? Evitiamo la catastrofe umanitaria, condoniamogli gran parte del debito, ma che sia morta lì. Capito? Che sia morta lì, la Grecia è un gattino aggrappato ai maroni, così l'ha definito Forchielli. Che senti un po', Veronica, come definisce il tuo amico Varoufakis, dopo aver detto che andava in giro con lo zainetto perché secondo lui voleva abbracciare la Merkel e farsi esplodere. Questa era la strategia di Varoufakis, ma senti come lo definisce. Ah no, sta buono, guarda, questa cosa qui sono distrutto, sono uscito di Scalciofakis. È un demagogo, cinico, disonesto, che usa l'intelligenza per sé, non per il suo popolo. Eccolo qui, Scalciofakis lo chiama, cara Veronica, demagogo, cinico, disonesto. Devo davvero rispondere ai gattini attaccati ai maroni, a Scalciofakis? Non rispondo neanche, che senso vuoi che abbia? Anche perché sono stati tutti lì a dire peste e corna di Tsipras, Varoufakis, i pagliacci, questi due disonesti, malfidati, dopodiché dopo il referendum il giorno dopo l'atteggiamento collettivo era già cambiato, no? Eccolo. Quindi era bene. Ma certo, ma tu lo sai che Tsipras adesso ha presentato un piano, come racconta anche il Sole 24 Ore, che sono 12 miliardi di manovra, un piano che praticamente è pari pari l'ultimo piano Juncker con qualche modifica, cioè praticamente alla faccia del referendum. Il piano Tsipras più o meno è quello che chiede l'Europa, più o meno, Lo è un po', ma non è che Tsipras abbia fatto tutto questo, secondo me, sentendosi invece onnipotente, pensando che avrebbe dopodiché potuto ottenere qualunque cosa, perché poi rimanere nei giochi di questa Europa prevede smussare gli angoli per alcuni versi, però ha un potere contrattuale ed è stato in qualche modo, ha avuto una legittimazione popolare che andava rinnovata e ribadita, perché altrimenti nelle modalità di trattare l'Europa continuava, cioè quello che hanno fatto personaggi come Schulz raccontano proprio di un'Europa che poi la cosa affascinante è che non si sa chi gliel'ha detto. Cioè, il vertice che hanno fatto Hollande e la Merkel il giorno dopo per parlare loro di cosa fare con la Grecia, qualcuno mi deve dire qual è stato il giorno in cui un popolo, uno tra tanti, non dico tutti noi, è stato chiamato a valutare chi doveva decidere cosa, quando e come. Vabbè, perché? Però intanto perché, cara Veronica, intanto io ho detto che un ascoltatore, ecco, inviti un giorno Veronica Gentile alle 8:15 e ti dice via subito Milani, per la verità mi chiamo Milan, e risveglio con Veronica. Questo voglio subito cacciare, questa è stata un'ottima idea, ringrazio molto da parte mia. Ringrazio Milani, Carlo, lo mandiamo via a casa senza nemmeno la moto. Milani a calci, rotta, capisci? Milani buttato via. Ascolta la segreteria telefonica con noi, che poi ti saluto.

Quanto si spende ogni anno in Italia per il doping? 425 milioni di lire. Di euro. Sono tornate le lire e c'avevo ancora la Grecia in mente, pensavo alla dracma. State tutti tranquilli, non è tornata la lira. Allora, di questo fenomeno parliamo e voglio salutare Roberta Pacifici, che è direttrice dell'osservatorio su fumo, alcol e droga all'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno professoressa, eccoci qui. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ma perché ci si dopa così tanto? Oh beh, questa è una domanda, diciamo, difficile da... quasi più filosofica e culturale. È più filosofica e culturale, certamente. Beh, le motivazioni chiaramente possono essere molte. E, la ricerca delle migliori prestazioni nella vita è ormai un problema generale. La medicalizzazione di tutto quello che viene svolto nella vita, dall'attività lavorativa a quella ricreazionale, quindi anche quella sportiva, è ormai un fenomeno ben conosciuto. La ricerca, diciamo, dell'aiuto esterno e spesso chimico e dannoso per la salute, se non addirittura fatale, è un fenomeno. È un fenomeno conosciuto. Che c'è. È in crescita negli ultimi anni oppure è stabile? Ci aiuti a capire. Ma il fenomeno del doping è sicuramente un fenomeno per quello che riguarda il mondo amatoriale e, diciamo, negli ultimi anni noi lo troviamo in crescita rispetto ai dati che abbiamo come Ministero della Salute, Commissione di Vigilanza sul Doping, perché le percentuali di positività che abbiamo ritrovato, diciamo, negli ultimi anni sono tendenzialmente in crescita. Però ecco, l'attività della Commissione degli ultimi 12 anni ha trovato positività che non sono state mai sotto il 2,5% e hanno raggiunto anche in alcuni casi quasi il 5% di positività. Cioè di persone che fanno sport amatoriale, di quante persone stiamo parlando? Sì, stiamo parlando di una popolazione che svolge sport a livello amatoriale, quindi non professionistico, non di alto livello. Quali sono gli sport più a rischio? Dove è riscontrato più il doping, detto che nessuno sport è esente da questo problema? Ma noi abbiamo trovato positivi francamente proprio quasi in tutti gli sport praticati. Certamente le percentuali che troviamo non sono rappresentative del fenomeno all'interno di quella di quell'attività sportiva, perché noi valutiamo circa 2000 atleti l'anno su milioni di persone che praticano attività sportive. Sì. Quindi lei capisce che dal punto di vista proprio epidemiologico statistico non ha grande significato. Però certamente gli sport nei quali noi troviamo maggiore prevalenza di positivi sono il ciclismo e poi a seguire, diciamo, bodybuilding, ma non mancano positivi anche nel calcio, nel tennis, negli sport di squadra come il rugby. Sì, chiaro, quelli dove magari la prestazione fisica e singola soprattutto è più importante, deve essere, come dire, una prestazione esplosiva, è chiaro che lì magari l'aiutino... Ma anche negli sport di squadra non mancano. Positivi. Sì. Allora, io ricordo anche il numero di telefono 800 24 00 24, e le voglio presentare, professoressa Pacifici, il professor Sandro Donati, che spesso è stato ai nostri ospiti, ai nostri microfoni, è consulente dell'Agenzia Mondiale Antidoping, collabora con Libera e da qualche mese segue anche il tentativo, se vogliamo, di rinascita sportiva di Alex Schwarzer, il marciatore che con il doping ha perso tutto, ricordate il suo famoso pianto. Professor Donati, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei e a tutti. Allora, la domanda la posso fare anche a lei, più filosofica e culturale: perché c'è questo bisogno dello sportivo della domenica, non di tutti ovviamente, di doparsi, di essere performante e quindi essere disposto a tutto per esserlo? Ma da una parte ha funzionato il cattivo esempio degli atleti di vertice e dall'altro nello sport i praticanti amatoriali spesso vedono una specie di scorciatoia, per cui magari quello che non gli riesce nella vita cercano di farlo in una gara di maratona o di ciclismo di fondo, eccetera, insomma. E quindi interpretando la gara in questo senso come una scorciatoia, a quel punto è chiaro che vi concentrano delle aspettative incredibili, anomale, cioè, fino ad arrivare al punto di riempirsi di farmaci. Quindi con quell'affermazione, in qualche modo, anche se ottenuta in modo illegale, ottengono un'affermazione di se stessi. Ma sì, anche perché che vengano scoperti, come diceva la professoressa Pacifici, è ben difficile, in quanto non ci sono le risorse per effettuare dei controlli su larga scala in tutto il territorio nazionale. E quindi a quel punto, diciamo così, l'apparenza è quello che conta. Per poi no, ma è chiaro, per lei, professor Donati, chi sono soprattutto i colpevoli? Perché in quest'ultima inchiesta di Brescia sono stati arrestati, pare, dei medici compiacenti, dei farmacisti che prescrivevano farmaci che non dovevano prescrivere. Dov'è la catena, nella catena dei colpevoli o presunti tali? Chi sono i più colpevoli, secondo lei? Allora, chiaramente le maggiori responsabilità sono di tipo istituzionale, non riferite soltanto al nostro paese, ma anche diciamo su una scala internazionale. Le spiego, nessuno controlla la quantità di produzione farmaceutica a livello mondiale per verificare che sia commisurata alle reali esigenze terapeutiche, per cui accade che soprattutto alcune multinazionali molto capillarizzate a livello mondiale producano alcuni farmaci di tipo ormonale in quantità 3, 4, 5 volte superiore alle esigenze dei malati. Cioè lo fanno, lei dice lo fanno proprio perché sanno che c'è questo mercato parallelo del doping? Certo, non c'è solo quello, ci sono tanti modi per vendere farmaci anche ai sani. Quello degli sportivi è uno dei più rilevanti. E le istituzioni pubbliche sono assolutamente latitanti nel controllo della produzione farmaceutica. Per quanto riguarda il nostro paese, poi il problema è un altro. La legge italiana, promulgata nel dicembre del 2000, prevedeva espressamente la nascita di laboratori regionali. È chiaro che i laboratori antidoping regionali avrebbero potenziato notevolmente la lotta al doping. Invece che cosa è accaduto? Che la lobby del sistema sportivo, che preferisce tenere in mano stretti i controlli antidoping per ragioni ben comprensibili, ha fatto in modo che questi laboratori regionali non prendessero mai il via. Professoressa Pacifici, ci sono dei controlli? Anzi, le faccio la domanda, anche se non compete a lei, ma un medico che dovesse prescrivere un farmaco, anabolizzante o comunque un qualcosa che è illecito, e un farmacista che lo somministra, che provvedimenti bisognerebbe prendere nei confronti di queste persone? C'è una legge che, diciamo, che è la 376 del 2000, che prevede la pena proprio per chi somministra, commercia, incita, e sponsorizza, l'uso di sostanze vietate per doping. Certamente, a parte però la legge, qui entriamo anche in un campo di etica professionale molto, molto importante. A volte, il caso è anche meno eclatante, ma altrettanto importante, perché quando noi abbiamo, e i dati ci sono, una popolazione sportiva che ha una prevalenza di persone che utilizzano sostanze per l'asma e quindi dichiarano di essere asmatici, che è molto più alta della popolazione generale, ci dobbiamo chiedere se il medico che ha fatto la diagnosi, ha prescritto il farmaco per tamponare questa patologia, per curare questa patologia, si stia comportando in maniera etica, seppure lecita. Perché chiaramente se un atleta viene diagnosticata l'asma, io il salbutamolo glielo posso prescrivere, ma è possibile che ci siano così tanti atleti affetti da asma, ed è possibile che soltanto quel farmaco è in grado di controllare la patologia? Queste sono le domande che si possono, che si devono porre, ma chiaramente io vorrei sentire Norberto da Pisa, ci ha chiamato all'800 24 00 24. Norberto, buongiorno. Allora, io faccio una premessa, sembra di parlare di cose avulse, insomma, la realtà. Io ho fatto tantissimo sport ad alto livello da ragazzo, nazionale, e poi ero dilettante. Che sport, ce lo può dire? Facevo canottaggio. Canottaggio. E poi da fino a qualche anno fa ho fatto maratone, gare in mountain bike, quindi conosco un po' da dilettante appunto quello di cui stiamo parlando ora. Il problema secondo me è proprio un fatto culturale, cioè, noi in Italia è inutile nascondere, cioè, ne parliamo, ne parla lei costantemente nelle sue trasmissioni, per ogni cosa cerchiamo la scorciatoia. Sì, il problema del doping non è italiano, è mondiale. Sì, però diciamo, nei dilettanti secondo me è mondiale a livello professionistico, questo a mio avviso. Nei dilettanti così, a quello che dicono anche i suoi ospiti, certo, ma io capisco. A livello di Norberto, va bene, si cerca la scorciatoia, però, professor Donati, la ringrazio Norberto per questa conferma, si cerca la scorciatoia, ma voglio dire, la sensazione che uno assumendo una sostanza del genere intossica il proprio fisico è proprio una sensazione che viene messa da parte, viene dimenticata, viene abbandonata, non viene neanche minimamente presa in considerazione, Donati? Viene, come dice lei, viene minimizzata perché prevale questo desiderio spasmodico di apparire più forte di quello che uno è. È sufficiente andare ad assistere a una gara amatoriale e ci si rende subito conto delle diverse tipologie. C'è il partecipante tranquillo, sereno, che fa la sua gara senza particolari esagerazioni, e poi lei vede quello veramente esasperato, che controlla fino all'ultimo se qualcuno lo sta per superare alla fine, che fa degli sforzi incredibili per magari per arrivare 152esimo invece che 151esimo, tutte cose illogiche, inadeguate, perché da una certa età in poi lo sport andrebbe fatto lasciando dei margini, senza impegnarsi diciamo allo spasimo, perché diventa anche pericoloso per il cuore e per altri organi. Ecco, basta questo identikit esteriore e lei vede che c'è gente che il problema del rischio per la salute non se lo pone nemmeno di fronte a questo desiderio di risultato. Questo sì. Per concludere, professor Donati, come va Schwarzer? Perché lo abbiamo avuto anche a questi microfoni proprio all'indomani di questo suo tentativo di rinascita, anche con lei vi abbiamo sentito, io ho detto sono sempre per una seconda opportunità, insomma si è pentito, ha sbagliato, ha chiesto scusa, ha chiesto profondamente scusa. Come sta andando la rinascita sportiva di Schwarzer? Guardi, Schwarzer sta rasserenandosi ogni giorno di più, si allena con continuità, cresce, è stato coraggioso ed è coraggioso a tornare mostrandosi con le sue sole forze. Sapeva benissimo che rivolgendosi a me i controlli sarebbero stati strettissimi per sua garanzia e per garanzia di tutti, ed in effetti e anche sua, professore, perché lei è un uomo che mette la faccia contro il doping da decenni. Certo, in 2 mesi e mezzo che sta a Roma abbiamo già fatto 11 controlli ematici, quindi una media di 1 ogni 6-7 giorni. Ecco, da questo punto di vista quindi è un modello di recupero di un atleta che viene dal doping. Io sono contento nel vederlo sereno e fiducioso e spero anche che si possano ottenere dei risultati di un certo tipo. Non si sa come va i risultati, però sta rispondendo bene dal punto di vista dei tempi. Sicuramente non andrà piano. Andrà forte. Vabbè, ma questo l'abbiamo sempre detto, cioè il motore è quello, non è che si può cambiare. Io intanto vi ringrazio, professor Sandro Donati, ricordo consulente dell'Agenzia Mondiale Antidoping, collaboratore di Libera e anche uno degli allenatori adesso di Alex Schwarzer. E ringrazio la professoressa Roberta Pacifici, che dirige l'osservatorio su fumo, alcol e droga dell'Istituto Superiore di Sanità. Gli ultimi 3 minuti, io sono contentissimo di poter ospitare una persona che abbiamo già ospitato. Si tratta, forse ve lo ricordate, di Samuel Marchese. Samuel, ciao, come stai? Buongiorno, tutto bene. Allora Samuel, tu devi ricordare ai nostri ascoltatori, quanti anni hai? 16 anni. Samuel, sì, insieme ad altri amici, perché immagino abbiate già fatto tanta amicizia, ha deciso che il 15 luglio partirà da dove, Samuel? Da Siracusa. Da Siracusa e arriverà fino all'Expo qui in Lombardia. E come ti sposterai, Samuel, insieme ai tuoi amici? Allora, noi ci sposteremo in bike, che è la bici che usa anche Alex Donardi. Esatto. E poi ci saranno anche dei non vedenti, quindi si sposteranno in tandem, che è quella bici a due con la guida, e poi ci saranno anche due ragazzi con problemi socio-relazionali, quindi si sposteranno con le loro bici. Noi, no, sono contento perché l'ultima volta ci siamo sentiti a parlare di questo progetto, ho detto vedremo di cercare di seguirvi, e sono contento perché posso dire che vi seguiremo, sai che ti seguiremo, te e i tuoi amici, ogni giorno, ogni giorno, perché da Siracusa risalirete l'Italia con tappe che vi porteranno dalla Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Emilia, Liguria, Piemonte, fino alla Lombardia. Il messaggio che volete portare qual è, Samuel? Allora, noi vogliamo mandare il messaggio che per mandare questo messaggio il problema è uno, non ci sono i fondi ancora. Non ci sono i fondi, ecco, appunto, no, vabbè, ma intanto il messaggio culturale che volete portare qual è? Poi dopo faremo un appello anche su questo. Allora, lo fate? Perché fate questo spostamento fino all'Expo? Allora, il messaggio che vogliamo lanciare è che tutti possiamo farcela, che la vera forza, quella che veramente riesce a muovere tutto, non è quella fisica, come molti pensano, ma è quella della volontà e della caparbietà. E quindi noi attraverso questa impresa vogliamo dimostrarlo. Anche se noi abbiamo delle difficoltà, vogliamo dimostrare che nonostante abbiamo queste difficoltà siamo capaci di farlo. Ecco, mancano fondi perché voi vi sposterete, in quanti siete in tutto a spostarvi? Tra... allora abbiamo diminuito il numero, adesso siamo intorno a una ventina. Ogni giorno dovete dormire da qualcuno, ogni giorno avete bisogno di ospitalità, perché non è che partite con i soldi, con gli sponsor. E quindi puoi dire un indirizzo dove, non so, su Facebook o un sito internet dove magari qualcuno vi può anche contattare a dire, anche solo c'è bisogno di dire ok, vi ospitiamo noi per questa notte in questa tappa, potrebbe essere già un segnale. Dici come contattarti. Allora, il sito per contattare è flightonitaly.com, che è il sito che ci sta aiutando nella realizzazione in questi impresi. Com'è che è il sito, che me lo sono perso? Chi c'è, un cane che abbaia? Sì, che c'è flightonitaly.com. Vabbè, ma chi è il tuo cane? Che c'è? C'è il cane? Ti porti anche il cane in questo viaggio? Sì, il sito è flyzoneitaly.com, fly come volare in inglese, zoneitaly.com. La troupe di volo acrobatico. Di volo acrobatico. Comunque, fate la cosa più semplice, scrivete a noi una mail, 24mattino@radio24.it, e noi vi daremo tutti gli indirizzi per aiutare Samuel Marchese e la sua ventina di amici, che noi seguiremo giorno dopo giorno dal 15 luglio a risalire l'Italia da Siracusa all'Expo. Samuel si sposterà in handbike, ci sono dei non vedenti, ci sono ragazze e ragazze che hanno problemi di disabilità e che vogliono lanciare questo messaggio. Samuel, noi ti ringraziamo, faremo il possibile per stare con voi e vicino a voi e seguirvi tutti i giorni. Intanto in bocca al lupo, il 15 si parte, noi invece ci fermiamo per oggi e riprendiamo fino alle 9, dalle 6.30 alle 9, orario solito, da lunedì. 24 mattino.